Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alle puntate estive di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Da luglio a metà settembre vi facciamo riascoltare alcune tra le storie più belle e significative andate in onda nel corso dell'ultima stagione. Storie di giovani espatriati al lavoro ai quattro angoli del pianeta. Storie di under 40 che ce l'hanno fatta e hanno un messaggio preciso da lanciare all'Italia, paese che hanno lasciato in cerca di migliori opportunità. Tra poco ascolterete qual è questo messaggio. Una puntata molto europea a segnare questo ingresso nel mese di settembre, lasciandoci lentamente l'estate alle spalle. Tra architettura e ricerca, due storie di giovani italiani che sono dovuti emigrare per trovare quella dimensione di crescita e professionale che in Italia resta zavorrata da troppi ostacoli, in primis culturali ancor prima che economici. Non perdiamo però tempo, trasferiamoci subito in Olanda per indagare le opportunità per i nostri giovani architetti nei Paesi Bassi. Nome: Paolo. Cognome: Paleschini. Età: 39. Città di origine: Castelfranco Veneto. Studi: Università UOV di Architettura, Venezia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? Rotterdam. Perché? Per una nuova avventura. Quale lavoro svolge attualmente? 3D Concept Designer. Dove? Studio Khan Architecten di Rotterdam. Tornerai? Per ora non penso. Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? Nel caso foste interessati alla mia vicenda, contattatemi, sarei fiero di raccontare la mia storia da emigrato, inizialmente per un'esperienza a breve termine, poi per necessità, dato che l'Italia non può offrirmi quello che ho qui adesso. Partiamo da qui, Paolo. In questa semplice frase racchiudi tutto l'orgoglio di una carriera fatta da italiano, col bagaglio culturale e creativo che ci portiamo dietro, e l'amarezza di provenire da un paese che dimentica chi se n'è andato, dopo non avergli dato opportunità. Oggi ti senti più italiano o europeo? Sono sicuramente italiano per il mio temperamento, la flessibilità e l'inventiva nel risolvere i problemi, però nella quotidianità di ogni giorno, posto di lavoro, mi sento più europeo. Allora, riavvolgiamo il nastro della tua storia. Veneto d'origine, ti iscrivi alla facoltà di architettura a Venezia. Cosa ti spinge su questa strada? Volevo esprimere la mia creatività, avere delle idee per progettare nuovi spazi e quindi per risolvere le esigenze delle persone, e pensavo al tempo che la facoltà di architettura mi avrebbe portato ad avere varie possibilità di lavoro. Sei soddisfatto o pentito della scelta? Che voto dai all'esperienza universitaria nel complesso? Sono soddisfatto. Il voto che posso dare all'Università di Venezia è un 8. I problemi arrivano già durante gli studi. Ti rendi presto conto che le condizioni di lavoro per un giovane futuro architetto non sono, per usare un eufemismo, ottimali in Italia? Nello specifico? C'era una visione del futuro che era incerta, era senza prospettive, e anche dal punto di vista economico giungeva una visione nel futuro. E quindi avevo voglia di cambiare, di avere una nuova esperienza, e quando ho avuto la possibilità l'ho colta al volo. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Non avevo più voglia di lavorare nero, di essere pagato 5 euro l'ora e vivere con i miei genitori. Quindi, quando mi sono laureato, ho deciso subito di cercare lavoro all'estero, scrivi. Anche perché, a notte, l'Italia, in Italia è un'utopia avere un semplice contratto ed essere pagato. Perché scegli però l'Olanda? Ho scelto l'Olanda perché, specialmente nel 2007, era la capitale dell'architettura. Sì, diciamo che ci sono i più famosi studi di architettura, e quindi ho pensato per una visione delle possibilità di trovare lavoro. Ecco, per arrivare nei Paesi Bassi ti è stato sufficiente un curriculum. Chi ti ha chiamato e con quale offerta? Sì, mi aveva chiamato lo studio Monolab ed era per partecipare ad un concorso riguardante un network marittimo al nord dell'Olanda. Sapevo già dall'inizio che il lavoro era per un mese. Accettai in qualsiasi caso perché ho pensato che fosse una buona occasione. Ho detto assolutamente, futuro... assolutamente. Ma così, parti per Rotterdam e io ti chiedo: quale ecosistema hai trovato a Rotterdam nel settore dell'architettura? Quale mondo stimolante di opportunità che hai potuto toccare con mano? Assolutamente entusiasmante. Rotterdam è una città dinamica, multietnica. Nello studio dove ho iniziato a lavorare successivamente era composto da 40-45 architetti di molte nazionalità diverse, quindi un bagaglio culturale, un modo di scoprire anche diverse esperienze che avevano portato altre persone a muoversi, come è successo a me. La cosa più sorprendente è che, scaduto il primo contratto, decidi di restare a Rotterdam. Vogliamo dire quanto ci hai messo a trovare un nuovo impiego? Era nel 2007, era prima della crisi, ci ho messo 2 settimane. La prima mansione con cui vieni inquadrato è quella di Tirocinante, 3D Assistant Design Developer. Esattamente, in breve, in cosa consisteva quel lavoro? È il lavoro lavoro di cui mi occupo anche adesso, non sono più assistente ovviamente, ma sono 3D concept designer e quindi mi occupo di modellazione 3D e visualizzazione architettonica. Il punto vincente, quello che fa la differenza, è l'ambiente multinazionale di lavoro con metà dei colleghi stranieri, quindi una filosofia di attrazione dei talenti. In questo senso ti chiedo, vedi l'Italia e gli studi di architettura italiani aperti internazionali oppure chiusi e provinciali? Sono un po' di anni che sono nativo all'Italia e quindi non ho una buona visione. Posso dire che forse gli studi più piccoli sono un po' più provinciali, però gli studi più grandi vedo che comunque si stanno ampliando come visione, stanno cercando di avere lavori a livello europeo o extraeuropeo. Le tue capacità vengono apprezzate, anche se, precisiamolo, non ti viene regalato nulla. Per arrivare al contratto a tempo indeterminato passi attraverso 3 contratti da un anno. Tuttavia l'azienda decide di tenerti e investire su di te anche quando la crisi la obbliga a dimezzare i dipendenti. Come viene applicato, ti chiedo, il concetto di meritocrazia in Olanda? Posso dire che solitamente sono dipendente, almeno per la mia esperienza, se un dipendente lavora, si impegna, cerca di dare il meglio e comunque deve essere interattivo, nel senso proprio nuove soluzioni, alla fine viene premiato. E vedo per esempio anche nello studio dove lavoro, la conoscenza italiana è stata premiata perché ho altri colleghi che si trovano nella mia situazione. La tua posizione attuale qual è? Mi occupo praticamente, gestisco la parte di 3D visualization all'interno dell'ufficio. Mi occupo molte volte di concorsi internazionali. 3 anni fa leggi un annuncio di lavoro a Milano per una posizione di rilievo, ti candidi. Come andò a finire, lo vogliamo dire? Sì, al tempo volevo testare il mercato italiano, capire se la mia esperienza all'estero poteva darmi delle opportunità di lavoro. Però è stata una delusione perché non ho ricevuto nessuna risposta. Nessuna risposta, e questo secondo me è la cosa peggiore che capita a voi quando provate a tornare in Italia. Cominciamo a rispondere ai loro curricula. Mentre i miei colleghi tedeschi, dopo aver fatto un'esperienza di 2 anni in Olanda, tornavano a casa a lavorare, per me e altri colleghi spagnoli ciò non era possibile. Tornare in patria sarebbe stato un suicidio, scrivi con amarezza. Perché? I paesi normali non dovrebbero riattrarre la loro forza lavoro più qualificata e internazionale? Sì, diciamo che la situazione economica italiana è la situazione tedesca. Il problema è che quando tornavo in Italia, le vacanze, i miei amici architetti mi dicevano di rimanere all'estero perché la situazione era molto critica. Posso considerare che l'Italia non è un paese normale, è un paese anomalo perché non esiste la meritocrazia e molte risorse non vengono sfruttate. Per ora non penso tornerò in Italia, mi piacerebbe ma le condizioni sono ancora sfavorevoli, dici, però tu un progetto nel cassetto ce l'hai, in brevissimo qual è? Mi piacerebbe avere un mio studio per poter collaborare anche con altri studi di architettura nell'occuparmi di visualizzazione architettonica. Bocca al lupo. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Vedo un'Italia pigra, che ha difficoltà nel muoversi, nel cambiare. Un'Italia che dovrebbe rivoluzionare il sistema. È importante snellire la burocrazia. Molti studi magari non cercano di fare concorsi in Italia perché non sanno nel momento in cui vincessero se vanno a realizzare effettivamente il progetto. Ci raggiunge ora in linea Bruno Gabbiani, presidente di ALA Asso Architetti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Architetto Gabbiani, allora cosa ci insegna la storia di Paolo Faleschini? Dobbiamo concludere che per avere un contratto e uno stipendio decenti bisogna andare in paesi più moderni e meritocratici. Ma in Italia c'è un disordine perché qualcuno ha voluto rendere di massa una professione che è rivolta alla qualità e quindi ha inevitabili limiti di mercato. In Europa c'è una media di un architetto ogni 2.000 abitanti, Stati Uniti 1.300, Cina 40.000. In Italia 400, ma ci sono anche ingegneri, geometri e periti che fanno tutti lo stesso mestiere. Beh, se riusciamo a selezionare i migliori però, questo le chiedo, anche se sono tanti. Purtroppo per selezionare i migliori occorre che ci sia un mercato che vive e non che tutti vivano di briciole e di in condizioni di sottolavoro, di sottooccupazione. Questa è una crisi che ha colpito il settore in una maniera terrificante. Ci spiega in breve cos'è Asso Architetti? Asso Architetti è un'associazione che ha come mission la difesa, la tutela degli interessi diffusi e legittimi degli architetti liberi professionisti italiani. Siete un po' il sindacato, potremmo dire. Una specie di sindacato, una specie di Confindustria di architetti liberi professionisti. I nostri temi sono di avere dei concorsi che siano trasparenti e semplici, i costi delle prestazioni che siano riconosciuti, che i procedimenti amministrativi si semplifichino, che le norme degli incarichi pubblici siano semplici e legittime e che il progetto soprattutto sia visto dalla società come il centro della qualità dell'opera e dell'opera pubblica. Secondo l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, il divario reddituale tra architetti under 40 e over 40 ha raggiunto il 50%. In pratica un giovane guadagna la metà di un anziano. Dobbiamo imputare tutto alla crisi o forse non c'è anche un problema di spazi chiusi e rendite di posizione? C'è anche quello, perché il sistema è molto chiuso, molto corporativo e di conseguenza usa anche tecniche molto un po' torbide per selezionare il mercato, tipo la complicazione. La complicazione non è solo la volontà maligna della burocrazia, ma è uno dei sistemi che ha il paese per chiudersi e per difendersi da chi è più dinamico. Resta però paradossale il fatto che un paese come l'Italia, patria di architetti conosciuti in tutto il mondo, un paese con un passato glorioso, mandi letteralmente in esilio molti suoi giovani professionisti. Allora le chiedo, non c'è altra strada se non emigrare? E se sì, dove? Oppure si può anche restare? Io credo che si può restare, ma occorre una riforma strutturale della professione molto radicale. Innanzitutto gli architetti italiani devono cambiare mentalità, devono accettare di aggregarsi, di formare strutture. Il tempo una testa e uno studio è finito, molti devono accettare di non essere gli autori, cioè di non avere lo spirito dell'autore artistico dell'opera, ma di fare una prestazione parziale e specialistica all'interno di una struttura organizzata. Questo è quanto sta succedendo e avviene con successo in tutto il mondo. Qui è tutto molto frammentato, sbriciolato. Dobbiamo cominciare a pensare in grande, smettere di pensare sul locale, sul piccolo progetto. Dobbiamo pensare a una dimensione internazionale e soprattutto in una dimensione che sia adeguata a quella che è la richiesta internazionale di qualità dell'architettura, che è anche una richiesta di organizzazione del progetto in tutte le sue componenti, che sono economiche, di durabilità, di efficienza, di sicurezza, di prestazioni e non solo di qualità formale. Come Assoarchitetti avete attivato il servizio ALA Working Abroad dedicato agli architetti italiani all'estero. Le chiedo, può essere di aiuto anche agli under 40 espatriati come Paolo? Sicuramente sì, noi in questo modo abbiamo dato la possibilità a chi è in Italia e a chi è all'estero di creare una rete in base alla quale soprattutto chi ha delle occasioni che non sono tali da consentirgli di consolidare la propria occasione all'estero, di fare delle alleanze, quindi è solo un punto di passaggio. Poi noi non ci occupiamo, non siamo in grado di occuparci di come si svolgono e di come si sviluppano queste partnership, però se ne sono sviluppate molte decine in altrettanti paesi europei e anche extraeuropei. E ancora una volta torniamo alla dimensione internazionale che è necessaria. Grazie a Bruno Gabbiani e domanda di rito per Paolo Faleschini, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Beh, la prima sicuramente è quella di essere positivi, perché nonostante il periodo non sia favorevole, di essere sicuri della scelta che si sta per fare, però avere in qualsiasi caso anche uno spirito di adattamento. Prima di partire fare una ricerca di mercato, di capire quali sono i paesi che hanno maggiore richiesta e cercare di ampliare il network, magari contattando gli ex colleghi universitari e vedere in che situazioni si trovano. E poi una cosa importante secondo me è quella di non solo spedire un buon curriculum, ma nel caso anche bussare alla porta e presentarsi, perché gli studi ricevono centinaia di curriculum e molte volte non vengono considerati, non vengono letti, quindi la presenza fisica può sicuramente aiutare. Ora Strada in diretta, noi torniamo subito dopo con la seconda storia della puntata. Giovani talenti. Riprendiamo l'ascolto della puntata di Giovani Talenti, ci trasferiamo ora come annunciato in Francia per una storia che ci porta dritti nel mondo della ricerca e della robotica. Nome: Serena. Cognome: Ivaldi. Età: 32 anni. Città di origine: Genova. Studi: ingegneria informatica con indirizzo robotica automazione, poi dottorato in tecnologie umanoidi. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? Parigi. Perché? Un postdoc all'estero. Quale lavoro svolge attualmente? Ricercatrice in robotica all'INRIA. Dove? Nancy. Tornerai? Ora come ora non credo, ma forse un giorno. J'ai pas choisi de naître ici. Entre vignerons, c'est la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Mi spiace non poter portare tutte le mie conoscenze in Italia. Sì, mi spiace proprio. Non credo riuscirò a tornare nella penisola. Obiettivamente, ora come ora, la vedo dura e neanche voglio, perché la mia posizione attuale è un sogno. Scrivi, Serena, con molta schiettezza e amarezza a Giovani Talenti. Con altrettanta schiettezza ti chiedo, i sogni per i nostri giovani ricercatori si realizzano solo all'estero? Fortunatamente no, almeno nel mondo della ricerca che io guardo, vedo che ci sono molte persone che riescono comunque a essere successful anche restando in Italia, oppure andando fuori e poi tornando. Però diciamo che questo è più un'eccezione piuttosto che la norma, perché ci sono tantissimi italiani che sono fuori, che insomma hanno difficoltà a poter ritornare in Italia. E tu sei una di questi, dobbiamo fare però, come dicevi tu, diventare la norma il poter avere successo in Italia. La tua passione per la ricerca sboccia fin da bambina, è una passione che ti porta presto sulla